9 in punto. La politica nel tunnel. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno e benvenuti a 9 in punto. Oggi ritorniamo alla fine sul tema che abbiamo trattato anche ieri, ossia parliamo di politica economica, restiamo sulle cose concrete. Non ci occupiamo molto poco dei saggi e del lavoro dei saggi, di tutto il gioco che si sta facendo in queste ore in merito ai nomi da portare come candidati alla presidenza della Repubblica, alla formazione di un nuovo governo, seppure naturalmente sono cose importanti. Anche oggi, prima di iniziare, la stessa segnalazione che vi ho fatto ieri vale anche per oggi, perché ci abbiamo riprovato. Mi permetto di insistere con la massima cortesia, naturalmente, nei confronti dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Ancora oggi ci occupiamo di cose concrete, ci occupiamo quindi di soldi alle imprese, ci occupiamo di tasse, più avanti toccheremo anche il tema della Tares. Come sapete abbiamo un countdown quotidiano, un conto alla rovescia quotidiano in questa trasmissione che ci ricorda quanti giorni mancano all'aumento di un punto percentuale dell'IVA. Ne mancano 88 e chissà se su questo si deciderà di intervenire. Bene, anche oggi abbiamo chiesto la presenza di un deputato o di un senatore del Movimento 5 Stelle per sentire la loro opinione. Anche oggi, con il collega pur gentilissimo dell'ufficio stampa, ci siamo scritti ieri eccetera, e poi alla fine non se n'è fatto niente. Lo ribadisco un'altra volta, qua parliamo delle cose concrete, non parliamo di nomi. Quello che rintraccio oggi di interviste del Movimento 5 Stelle in giro per i quotidiani è ancora una volta sul tema dei nomi, chi portare, chi non portare. Qua se vorrete, se credete, parliamo di cose concrete. L'hashtag che abbiamo scelto oggi su Twitter è Tiritasso, giocoso, e speriamo che resti tale. Gianfranco Polillo, sottosegretario dell'economia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, inizierei da lei naturalmente, perché vogliamo capire un po' questa storia. Secondo quello che scrivono tutti i giornali, anche se poi è arrivata una parziale smentita dal suo ministro Vittorio Grilli, che dice insomma non è vero che consentiremo nel decreto l'aumento dell'IRPEF, consentiremo alle regioni di aumentare l'IRPEF per pagare le imprese. È una cosa che in realtà nel decreto è contenuta, però è destinata ad uscire. Allora, questo destinata ad uscire, devo dire la verità, Polillo, non ci ha convinto un granché. Vorremmo una parola definitiva, diteci che è fuori. Io purtroppo non sono in grado di dirvelo perché non sono in Italia, quindi non ho letto il decreto. L'impressione che ho avuto però, anche leggendo le agenzie, è che quella si tratta di una semplice posta contabile, quindi di una sorta di anticipazione data dallo Stato alle regioni, però verrà recuperata l'anno successivo su l'aumento dell'IRPEF che è stato già deciso. Perché altrimenti, questa è una mia deduzione, poi deciderà il Consiglio dei Ministri, altrimenti non sarebbe stato necessario aumentare il deficit dal 2,4% al 2,9%. Quindi ho l'impressione che il ministro Grilli abbia perfettamente ragione quando ha smentito quelle voci. Perfetto, quindi insomma la sostanza è che molto probabilmente tutto questo non ci sarà. Vedremo sulla base del decreto e nell'eventualità, insomma, un po' ci faremo sentire, perché vedo già gli ascoltatori naturalmente che ci scrivono su questo tema con un certo fastidio a proposito appunto di un eventuale aumento dell'IRPEF. Certo è, Pierpaolo Baretta, vicepresidente della Commissione Speciale, buongiorno. Buongiorno. Certo è, Baretta, che qualche preoccupazione da questo lato c'è, perché come ha già segnalato ieri lei, se non sbaglio, addirittura nell'intervento in aula, il rischio di una manovra correttiva è dietro l'angolo. Beh sì, perché come ricordava adesso il sottosegretario Polillo, l'operazione che stiamo facendo è indispensabile e assolutamente da realizzare senza le complicazioni di IRPEF eccetera, porta il deficit a ridosso del 3% e quindi di fatto esaurisce i margini di disponibilità, sapendo che abbiamo davanti a noi scadenze molto importanti, perché oltre ai pagamenti abbiamo la TARES che sta angosciando le imprese e il sistema produttivo, abbiamo il rischio dell'aumento dell'IVA dal 21 al 22% tra un paio di mesi, dobbiamo rifinanziare la cassa integrazione. Insomma, abbiamo una serie di scadenze inderogabili rispetto alle quali allora bisogna che nella discussione che faremo tra qualche giorno, perché arriverà il documento di economia e finanza, si discuta seriamente nel Parlamento e col Governo che cosa vogliamo fare, quali sono le priorità. Noi non vogliamo andare oltre il 3%, ovviamente, vogliamo stare dentro i vincoli di bilancio, ma sappiamo che quelle risorse sono necessarie. Ci scrive su Twitter Paolo, dice: tagliare i costi inutili della politica, basta tasse. Sì, detto ciò, non è che recuperi 20 miliardi all'anno tagliando i costi della politica, insomma, no. Può andare avanti nella spending review, che è un tema nel taglio complessivo delle spese, è un capitolo che va ripreso e riaperto, abbiamo in parte abbandonato negli ultimi mesi del governo della scorsa legislatura, però credo che non basti, bisognerà porsi il problema in generale di quali sono le strade da praticare per trovare queste risorse. Sicuramente, ed è il caso della discussione sull'anticipo eventuale dell'IRPEF, non mi pare che sia il momento di parlare di nuove tasse, né centrali né periferiche. Nel caso ci fosse nel decreto, voi siete pronti ad intervenire, immagino, ad emendare il decreto stesso? Sì, il decreto dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, se il governo lo vara questa sera, al Parlamento, allo stato attuale delle nostre procedure, alla Commissione speciale. Io penso senza ombra di dubbio che se c'è una soluzione di questo tipo verrà certamente emendata, perché anche se è vera l'osservazione del sottosegretario Polillo, cioè che si può trattare anche soltanto di una questione contabile, è evidente che diventerebbe una partita di giro per la quale i cittadini pagano gli enti locali che devono poi pagare le imprese, e a questo punto il circuito diventa vizioso, oltre che a quel punto non avere più senso parlare di aumento del deficit. Sottosegretario, ci chiede qualche ascoltatore se non si poteva procedere. Io vi ricordo tra l'altro il numero verde per intervenire in diretta, se volete, l'800 24 00 24, se non si poteva procedere o se non si può procedere direttamente tramite la Cassa Depositi e Prestiti per i pagamenti alle imprese. È una domanda che ci fa più d'uno. Però abbiamo un problema di linea con il sottosegretario Polillo. Adesso vediamo magari di trovare il modo di sistemare la linea col sottosegretario e vediamo se funziona, perché questa è una questione che ci interessa. Tornerei quindi nel frattempo a Baretta, che già accennava un po' del lavoro che avete in ballo. Si parla di un rischio ingorgo per la Commissione che, ripeto, al momento è l'unica funzionante del Parlamento, perché già qualcosa ci accennava lei, Baretta, no? Allora, avete adesso probabilmente dovrete esaminare questo decreto che arriva in Commissione speciale, poi c'è il DEF, questa mattina tra un'ora, alle 10, anzi tra meno di un'ora, affronteremo la questione degli esodati, e quindi c'è un altro tema molto delicato, perché nella legge di stabilità era stato deciso di coprire altre 10.000 persone dei salvaguardati, degli esodati, e non è mai arrivato il decreto applicativo che finalmente il governo ha fatto in questi giorni, e dovremo iniziare a discuterlo questa mattina. Nei prossimi giorni appunto arriverà il decreto, poi mi auguro che arrivi la Tares, altrimenti la sollecitiamo noi, cioè l'opinione prevalente è rinviarla di un anno questa nuova tassa che sostituisce la tassa sui rifiuti e che sta determinando molti problemi, dopodiché arriva il DEF che è un punto decisivo perché è il documento programmatico e vi è anche il documento del Piano Nazionale delle Riforme, che è quel documento che l'Italia consegna all'Europa per una discussione, diciamo, combinata con l'Europa su che quali sono i progetti e i programmi di crescita e di sviluppo del paese. Quindi è un mese assolutamente, il mese di aprile è un mese per le politiche di bilancio, è un mese decisivo. Un pochino intenso. Un ingorgo, come diceva Alessio, un ingorgo. Allora abbiamo recuperato il sottosegretario Polillo, al quale volevo a questo punto rivolgere due domande. La prima è sulla questione dell'uso della Cassa Depositi e Prestiti, sulla quale ci sollecitano gli ascoltatori. L'altro è il tema che già accennava Baretta e sul quale poi più avanti torneremo, perché dopo le 9.30 ospiteremo anche il presidente dell'ANCI, Graziano Del Rio, quindi molto interessati ovviamente a questo tema, è la questione della Tares. Secondo alcuni calcoli, ve l'abbiamo raccontato anche nei nostri giornali radio, io nel conto alla rovescia che facciamo sull'IVA ho deciso di non mettere la Tares perché spero francamente che da questo lato qualcosa venga fatto. L'IVA mi sembra un po' più inevitabile, però si parla, per esempio, per i negozi ci sono aumenti che arrivano al 621% della tassa su rifiuti e servizi. Da questo lato come si può agire, sottosegretario? Dunque, cominciamo con Cassa Depositi e Prestiti. Su Cassa Depositi e Prestiti noi non possiamo utilizzarla come una struttura del bilancio pubblico, perché altrimenti Cassa Depositi e Prestiti verrebbe inserita nella PA e quindi il debito di Cassa Depositi e Prestiti aumenterebbe il debito italiano. Quindi bisogna essere molto attenti a questo. Noi per il momento abbiamo evitato questo pericolo dicendo che Cassa Depositi e Prestiti è una struttura, diciamo, privata, per farmi capire, che non rientra quindi nel settore pubblico allargato, e questo ci pone dei vincoli molto stretti che non possiamo superare. Per quanto riguarda la Tares, io ho paura che noi non potremmo dilazionarla in corsa d'anno, ma eliminare gli aumenti la vedo un po' più difficile, perché quelle entrate sono conteggiate nei tendenziali di finanza pubblica. Quindi il problema è che noi ormai non abbiamo più margini. La cosa che dobbiamo fare è rinegoziare con l'Europa, non soltanto noi, ma noi, la Francia, tutti i paesi del Mediterraneo, perché non è pensabile che noi quest'anno avremo un avanzo delle partite correnti del bilancio dei pagamenti di 2,5 punti di PIL. Questo significa che l'Europa sta facendo una manovra recessiva come l'ha fatta l'anno scorso, ed è una manovra intrinsecamente sbagliata non perché siamo contro il rigore, ma perché questo è un rigore eccessivo che uccide l'economia. Quindi, siccome un problema non riguarda soltanto l'Italia, ma riguarda tutti i paesi del Mediterraneo, io credo che noi dobbiamo andare in Europa e rinegoziare con la Commissione europea quelli che sono i tendenziali fondamentali dell'economia europea. L'Europa non può essere un elemento recessivo della situazione internazionale per errori fatti nella politica economica. Questo è il punto centrale da capire. L'impressione però, sottosegretario, è che i tempi di negoziazione da questo lato siano piuttosto lunghi, soprattutto nel momento nel quale c'è un governo, il vostro, che è in carica per gli affari correnti. Poi, come abbiamo visto, in realtà, insomma, per affari correnti si intendono tantissime cose, tra cui appunto un decreto per pagare le imprese. Ora, a questo punto la botta della Tares arriverà. Lei dice la possiamo dilazionare nel corso dell'anno, ma insomma nel corso dell'anno vuol dire comunque pagarla nel 2013, è comunque una botta notevole, insomma rischia di affossare ancora di più l'economia, no? Lei ha perfettamente ragione, ma se siamo vincolati del 2,9%, lei capisce che è difficile uscire da questa situazione, a meno che non il prossimo governo non presenti con un forte taglio delle altre spese e che quindi recuperi il minor gettito derivante dalla Tares tagliando le spese. Questa è l'altra alternativa. Io dico, noi siamo un governo minoritario, è vero, in questa fase, o meglio, un governo di ordinaria amministrazione, però il tema dell'Europa non è un tema italiano, è un tema italiano, è un tema greco, un tema spagnolo, un tema francese. Se non si comincia a ragionare in termini di grandi, di macroeconomia a livello europeo, non ne usciamo da questa situazione, perché è come un cappio che stringe inutilmente sempre di più il collo dell'economia. È un errore continuare in questa direzione. Lo dico da economista, non da sottosegretario. Basta aver letto un po' di libri di economia per rendersi conto che quando c'è un forte attivo della bilancia dei pagamenti significa soltanto rivalutare il dollaro, l'euro nei confronti del dollaro e nei confronti dello yen. Pensi che l'anno scorso la rivalutazione nei confronti dello yen è stata del 17%, a quanto lo vogliamo portare? Al 40%, è una follia. Baretta, nel decreto dicono le indiscrezioni di oggi sempre, e poi naturalmente lo vedremo ancora una volta, il ragionamento lo stiamo facendo naturalmente su quello che circola, sulle bozze di decreto, dice che parte della copertura arriverà ancora una volta da tagli lineari ai ministeri, almeno insomma così scrive oggi il Sole 24 Ore, diciamo, e non solo perché fa parte del mio gruppo, non solo perché è il mio gruppo editoriale, il gruppo 24 ore, ma tendo a fidarmi del Sole 24 ore su queste cose qua. Anche quello è un fronte preoccupante. Già si accennava alla spending review, evidentemente insomma non si è riuscito a fare abbastanza dal lato dei tagli delle spese, e poi ancora una volta a non cambiare la mentalità. Cioè, io stupisco che stiamo ancora qua a parlare di tagli lineari. Ma dunque, sono due le risposte alla sua domanda. La prima riguarda l'impianto. Qui ci dobbiamo mettere d'accordo col governo, perché non è che possiamo cambiare, poi dobbiamo ovviamente aspettare il decreto, quindi può darsi che tutte queste siano solo illazioni. Può cambiare ogni giorno impostazione, perché in questi giorni abbiamo discusso nella risoluzione che abbiamo votato ieri, e il ministro Grilli è venuto in commissione, il ministro Grilli ha detto chiaramente che per pagare le imprese aumenta il deficit, passando quindi, come abbiamo appena detto, dal 2,4 al 2,9 e anche eventualmente aumentando il debito emettendo titoli di Stato. Se questo è vero, ed è una linea che pone i problemi che sono stati detti prima, cioè che non ci sarebbero più risorse ulteriori, ma se questo è vero, non c'entrano tagli, non c'entra anticipo dell'IRPEF, non c'entra niente. Se invece si parla che questa manovra deve trovare delle coperture, quindi non avviene a debito, ma deve trovare delle coperture, allora intanto eliminiamo la discussione 2,4-2,9 e però discutiamo di quali sono le coperture. E vengo al secondo punto, basta con i tagli lineari. Questa è una cosa chiarissima ormai, ma chiarissima trasversalmente, non esiste una differenza politica su questo punto. I tagli lineari non raggiungono nessun risultato pratico, mettono tutti in ginocchio e non identificano le vere questioni. Le faccio solo un esempio: dal 1990 ad oggi l'unica spesa che non è aumentata in proporzione alle altre è la spesa per l'istruzione e la scuola. Francamente, allora, quando si parla di tagli lineari vuol dire che non si coglie quello che è l'elemento degli sprechi. Io prima ho detto che bisogna riandare ad aprire il capitolo della spending review, però va fatto con tagli mirati. Allora il governo deve, questo governo, perché è lui in carica, adesso al di là degli affari correnti o meno, come lei giustamente ricordava, c'è un sacco di roba da fare, esca da questo riserbo nel quale tutte le cose vengono discusse e presentate a cose fatte. C'è una commissione parlamentare, c'è un Parlamento. Bene, mettiamo tutto sul tavolo e discutiamo preventivamente. Noi siamo contrari a ogni taglio lineare, siamo invece disponibili a una discussione sulla spesa, ma va fatta con criteri assolutamente innovativi. Ecco perché è necessario che anche l'eccezionalità della situazione politica comporti anche una eccezionalità nella gestione dei rapporti tra governo e Parlamento. Il governo sia più sensibile e più disponibile ai rapporti quotidiani col Parlamento. Domenico ci chiama da Pisa, buongiorno. Sì, Cascina Pisa, Cascina. Cascina. Va sì, bene, sì. Prego. E niente, io volevo dire soltanto che questi soldi che possono mancare si possono prendere benissimo da una sanità che è gestita malissimo, perché tutte queste cooperative e associazioni che lavorano all'interno della sanità non sono altro che serbatoi di voto, perché si verifica che per 15 posti di gestione di persone costano 780.000 euro all'anno e che non sono ricoveri ma sono diurni. Guardi Domenico, qua entriamo anche nel cuore non solo della spending review ma anche dell'occupazione politica di cariche che invece dovrebbero essere tecniche, che è un tema che abbiamo affrontato e sul quale sicuramente torneremo. Poi la situazione delle aziende sanitarie, come sappiamo, è quella che è. Sono poi proprio le aziende sanitarie ad avere i maggiori problemi di pagamento nei confronti delle imprese, come sappiamo. 9 in punto. Sentiamo anche Giovanni dalla provincia di Caserta, buongiorno. Salve, buongiorno dottor Spezia. Sono dottore, tengo a precisare, prego. Salve, no, io stamattina, guardi, sono andato in azienda e l'azienda, io lavoro in una piccola azienda di metalmeccanica di Caserta, siamo circa 20 di persone e niente, l'azienda ci ha fatto, già si preannunciava questa cosa, però stamattina l'azienda dice guarda, da mo a dicembre siete in mobilità. Quindi praticamente mobilità forzata, già eravamo coscienti di questa cosa e stamattina abbiamo avuto la conferma. Poi sentendo parlare di TARES, di aumento dell'IVA, di IMU che si c'era a gennaio, a giugno, allora mi domandavo, scusate, ma chi è che paga queste tasse? Cioè come mai lo Stato si accaniscia verso un tipo come me che per 20 ha pagato le tasse, che ho a casa due bambini? Ma c'è bisogno di essere un ministro dell'economia per capire che in Italia ci sono persone che guadagnano fior di quattrini? Ma c'è bisogno di essere un ministro dell'economia per capire che in Italia ci sono persone che guadagnano 90.000 euro di pensione al mese? E questa è la domanda che mi chiedevo. Allora, per quale motivo non ti vanno a toccare? Che fine hanno fatto i capitali scudati che sono solo tassati al 5%? Miliardi di euro che sono rientrati dall'estero illegalmente? Allora ecco perché nasce l'insoddisfazione nei confronti di queste persone. Queste persone qua non pensano a noi, pensano solo a loro. E questa è la dura realtà. E si fa finta di niente. In Italia adesso siamo nominati da questi saggi. Questi saggi che cosa stanno facendo? No, in realtà, Giovanni, io capisco benissimo lo sfogo, comprensibilissimo. In realtà questi famosi saggi, queste due commissioni volute da Napolitano, c'è stata un po' di confusione su questo, a dire il vero. Non stanno governando niente, in realtà hanno il dovere di elaborare proposte. Su questo sfogo io poi voglio sentire Polillo e Baretta, ma intanto saluto Graziano Del Rio, presidente dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani. Buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. Buongiorno. Del Rio, questa TARES, abbiamo sentito poco fa il sottosegretario Polillo che ha ribadito quella che è la sua posizione, che è la posizione del governo, che questa TARES sarà ben difficile toglierla o ridurla, anzi praticamente impossibile. In realtà è in arrivo tra 80 giorni, 88 giorni, una botta molto potente. Che cosa si può fare da quel lato secondo lei? Ma noi abbiamo detto che sarebbe stato utile rinviare la TARES al 2014 per un semplice motivo, perché come è noto l'anticipazione, la posticipazione anzi a luglio avrebbe creato gravi problemi oltre che alle famiglie, perché è una tassa in più, di fatto la TARES è sostanzialmente un doppione dell'IMU messa in questi termini, ma a parte l'aggravio dell'imposizione fiscale avrebbe provocato anche il posticipo a luglio, che peraltro è stato deciso non dal governo, questo va riconosciuto, ma dal Parlamento, avrebbe provocato 2 o 3 mesi di gravissimi problemi di liquidità nelle aziende che raccolgono i rifiuti e nei comuni che gestiscono appunto la raccolta rifiuti. Quindi noi rischiamo di avere un aprile e un maggio molto molto complicati da un punto di vista della raccolta rifiuti. E quindi noi riteniamo saggio che il governo provi a trovare una copertura per rimandare questa tassa al 2014. Avete anche immaginato qualcosa del Rio? Come si potrebbe coprire? No, guardi, il tema è questo, che il governo ha già coperto questa tassa, nel senso che ha fatto un taglio a noi, quindi come al solito noi riscuotiamo per conto del governo 1 miliardo, diciamo così. Quindi come è avvenuto poi del resto per l'IMU, quindi abbiamo fatto un po', come dire, coloro che riscuotono per nome e per conto. Quindi il taglio preventivo c'è già stato, bisognerebbe trovare la copertura sul taglio dei trasferimenti effettuato a noi. Questo ovviamente non è un compito nostro, cioè è chiaro che diversi suggerimenti noi li abbiamo dati nel corso della discussione della manovra finanziaria, ma non è nelle nostre facoltà capire se vi sono margini, visto l'andamento dell'economia, del gettito, eccetera, negli ultimi mesi per poter fare. Ma in ogni caso, ripeto, se si vuole conservare questa tassa dello Stato, almeno si anticipi, si vada in Parlamento e si chiede l'anticipo, perché i prossimi 3 mesi, se no, ripeto, saranno molto, molto complicati. Cioè lei dice anticipare la TARES sostanzialmente? Era prevista ad aprile. Noi chiediamo che venga rinviata al 2014, ma in subordine, se il governo non trova la copertura, se non vi è possibilità di far quadrare il bilancio dello Stato diversamente, almeno si ritorni all'ipotesi originale, perché in questi 3 mesi, ripeto, aprile, maggio e giugno, ci sarà un grave problema di liquidità nelle aziende e nei comuni. Perché sostanzialmente si raccoglieranno i rifiuti senza avere il pagamento delle imposte, sostanzialmente. Capisco che sia discretamente complicata una cosa di questo genere. Perché parliamo di milioni e milioni di euro in ogni comune, non è una cosa da poco. Dal lato invece del decreto in arrivo oggi per il pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese, il lavoro che si sta facendo, quello che è emerso dal Parlamento, quello che leggete in queste ore, visto che tra l'altro si parla della possibilità di un allentamento dei vincoli del patto di stabilità, non solo per il pagamento, ma anche magari anche per altre cose, per possibilità di stimolo all'economia, magari qualche piccola opera. Vi soddisfa quello che state vedendo, Delrio? Beh, la prima bozza del decreto, cioè le prime dichiarazioni del ministro Grillo, andavano in una direzione secondo noi molto molto giusta e utile. Si parlava di sbloccare praticamente 7-8 miliardi solo per i comuni e le province, quindi avendo noi in cassa più di 9 miliardi di soldi bloccati, eravamo disponibili a immettere immediatamente questa liquidità per le nostre imprese e le nostre famiglie. Adesso si parla di 5 miliardi e basta, non sappiamo di preciso con che modalità. Secondo noi la questione strutturale va risolta revisionando il patto di stabilità, cioè permettendo ai comuni che hanno dei buoni rapporti sull'indebitamento di essere fuori dalle regole del patto di stabilità per quanto riguarda gli investimenti, magari concordando gli investimenti come si fa in Francia e in Germania, non diciamo liberi tutti, diciamo di fare un percorso ragionevole e concertato. Questa sarebbe la soluzione strutturale. La soluzione congiunturale, cioè il pagamento una tantum, noi auspichiamo che venga fatto su tutti i residui di cassa, non solo su parte, almeno su tutto quello che ci consente il rapporto deficit-PIL, che va comunque mantenuto entro i limiti imposti. Quindi vediamo adesso come e se questo decreto, sto proprio partendo per Roma per incontrare il Presidente del Consiglio, come e se questo decreto permetterà un rapido sblocco dei pagamenti e non invece procedure burocratiche che già sono fallite in altre con altre vie, come sapete, la certificazione dei crediti è stata un mezzo fallimento, insomma, per vari motivi, non per responsabilità del governo, credo, ma per vari motivi. Quindi bisogna trovare una via rapida, perché la crisi morde e morde in maniera pesante. Polillo, da questo lato, questo mi sembra un elemento centrale, e ne abbiamo parlato anche ieri in trasmissione, il fatto che tutto sia il più semplice possibile. Io devo dire che su questa cosa capisco la complicazione burocratica, però ci divento matto, insomma, che un'azienda debba certificare una cosa che l'amministrazione, o autocertificare una cosa che l'amministrazione dovrebbe sapere benissimo, è curioso. Insomma, pensa si possa riuscire a trovare una soluzione semplice? Noi cercheremo di fare il possibile, abbiamo il rischio addirittura del caso di inadempienza. Niente, sottosegretario, abbiamo evidentemente dei problemi di linea piuttosto forti. Graziano Delrio, prima di salutarla, perché so appunto che è di corsa, che sta partendo per Roma, sta andando si faccia fare una domanda politica. Finiamo al voto presto, secondo lei la soluzione del Quirinale è buona? La soluzione del Quirinale è l'unica che i partiti hanno consentito, quella di avere una almeno un istruttorio ulteriore, perché questi erano i margini, viste le posizioni rispettive dei partiti, in cui si poteva muovere il Presidente. Credo che il voto presto sia inevitabile, l'importante sarebbe definire almeno 3-4 cose da fare tutti insieme, dal Movimento 5 Stelle a SEL, per poter appunto dare qualche risposta all'economia reale e al paese reale. 2 o 3 provvedimenti, appunto revisione del patto, pagamenti alle imprese, decisione sull'IVA e magari una riforma della legge elettorale, che mi pare indispensabile per non tornare a votare con questa legge. Queste 4-5 cose si possono fare tutti insieme e presto, quindi speriamo che tutti collaborino a questo sforzo dei saggi e che vi sia la possibilità di tornare a votare almeno con una legge elettorale diversa. Ma non ho capito, lei l'ha capito se Bersani è ancora in campo oppure no? Perché io no, dopo la conferenza stampa di ieri, che cos'è? Cioè, se è ancora preincaricato, incarico congelato, non so, scusi, non capisco, ecco, io probabilmente non capiscono nemmeno gli ascoltatori, ecco. Io non sono un esperto di questioni costituzionali, quindi lasciamo le interpretazioni ai professori e i costituzionalisti. Diciamo che lo sforzo dei saggi produrrà, pensiamo, in tempi rapidi appunto qualche punto, e poi deciderà il Presidente cosa fare, se eventualmente ridare fiducia e nuove esplorazioni a Bersani o altro. Io francamente questo non l'ho capito nemmeno io come sia la situazione, ma mi fido del Presidente della Repubblica. Grazie Graziano Del Rio, grazie e buona giornata. Sentiamo qualche altro ascoltatore, poi torniamo da Polillo e Baretta. Voglio sentire Angelo dalla provincia di Bergamo, che mi sa che è il nostro Angelo, quello che mettiamo in onda tutte le mattine in apertura e in chiusura di trasmissione. Angelo, buongiorno. Grazie Simone che mi hai richiamato. È lei. Benissimo. Oggi nessuna intemerata, per favore. Tanto ci teniamo quello che abbiamo iniziato. Sì, no, ma io voglio soltanto dire una cosa, no? Dove vanno a trovare questi soldi? E ultimamente, ascoltando la tua, scusa se ti do del tuo, ormai. La tua trasmissione, tutti i ministri che intervengono, ma ci raccontano tante di quelle belle cose che sembra verità. I soldi, apri il cassetto, li trovi dentro. Signori, ma siamo, quello che ho detto un mese e mezzo fa, l'Italia sta morendo. Io, se fossi il Presidente della Repubblica, prima cosa li chiamerei da tutti e vado là e gli dico: da domani voi non prendete più stipendio fin quando non risolvete il problema dell'Italia. Uno. Le macchine blu via a tutti, prendete i vostri mezzi. Quando voi cominciate a dare qualcosa, perché voi siete lì e prendete il stipendio e gente non mangia, adesso la TARES, non la TARES, è uno o l'altro, ma dove andiamo a finire? Ma settimana scorsa ho sentito Gasparri, parla così talmente bene, che io dicevo, ma tu mi hai risolto i miei problemi. Grazie Angelo, il nostro editorialista Angelo dalla provincia di Bergamo. Sentiamo anche Pietro da Pescara, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senta, io ascoltavo la trasmissione quest'oggi, io sono giovane più o meno, ho 28 anni, ho un buon titolo di studio e faccio un lavoro umile. Io sentivo questi saggi intervenire nella vostra trasmissione e parlano di tasse come fossero bruscolini, si parla di miliardi di punti percentuale qui e lì. Io nel mio piccolo lavoro, cerco di terminare gli studi e ho grandi difficoltà anche solo a pagare l'affitto. Si devono rendere conto che stanno giocando con le vite delle persone, in particolare con il futuro dei nostri figli e con il futuro dei loro figli. Quindi non so fino a che punto possiamo arrivare a sopportare tutto quello che stanno facendo, i discorsi sui partiti, i discorsi sul chi governerà, quelli. Si devono mettere in mente che hanno in mano le vite delle persone, niente di più. Questo è quello che volevo dire, volevo portare la mia esperienza, ma mi sembra che loro non siano molto interessati a sentirla, quindi va bene così. 9 in punto. Abbiamo lasciato un po' congelato, che ormai è un termine che evidentemente va di moda, Pierpaolo Baretta negli ultimi minuti, vorrei che rispondesse sia ad Angelo che all'ascoltatore da Pescara. Baretta, date un po' l'impressione, dice, di giocare con le cifre, di giocare con i numeri, di giocare con le tasse, di giocare sui nomi, no? Non avete idea, dicono, di quello che sta succedendo in questo paese. Ma ahimè, con i numeri non stiamo giocando, sono un po' di anni che ci arrabattiamo nel cercare con fatica e anche con qualche insuccesso la soluzione dei problemi. E l'ascoltatore di Bergamo ha posto un tema serissimo, cioè le risorse, i soldi che non ci sono. È inutile far finta, quando prima discutevamo sul fatto che noi abbiamo davanti alcune scadenze, io faccio una stima, mi dispiace dare grandi numeri, ma è la verità, è così. Se sommiamo la TARES, l'IVA, la cassa integrazione guadagni che sta finendo i finanziamenti, nei prossimi 3 mesi presumo che ci sia bisogno di 7 miliardi almeno, mezzo punto di PIL, più o meno, bisogna fare i calcoli esatti. I grandi numeri sono questo, sono la vita della gente, rispondo così anche al secondo. Quindi ci vuole il concetto, Baretta, che ci vuole una manovra da 7 miliardi? Ci vogliono 7 miliardi, che poi li troviamo tagliando le spese in generale, come penso che in parte vada fatto, che escludo di utilizzare nuove tasse, che poi dilazioniamo queste spese in un arco di tempo più lungo, che poi utilizziamo, prima lei lo ha chiesto a Polillo ha dato una risposta ineccepibile dal punto di vista formale, ma credo che politicamente si possa andare avanti, utilizziamo anche la cassa depositi e prestiti, insomma che utilizziamo le varie strutture se vogliamo realizzare alcune misure che aiutino l'economia e salvaguardino le persone e le famiglie, penso alla cassa integrazione guadagni, penso agli esodati, bisogna trovare dei soldi più o meno a quel livello lì. Questo è il tema che ha la politica davanti a sé. Credo che il fatto che in questi giorni, in queste ore, finalmente si ridiscute di contenuti, perché la trasmissione di questa mattina, come abbiamo discusso di merito, si parla di pagamenti, si parla di queste cose, perlomeno si discute della vita della gente e non di formule astratte che rischiano altrimenti sì di allontanare ulteriormente il rapporto tra i cittadini e la politica. Devo dire all'ascoltatore, mi sembra anche giovane, no, da come ha espresso la sua, che non deve, diciamo, in qualche modo preoccuparsi dei grandi numeri, perché purtroppo il bilancio dello Stato è solo più grande, ma funziona come un bilancio familiare e con la stessa responsabilità va affrontato, con la responsabilità di chi ha presente che ogni scelta che fa, muovendo grandi numeri, non solo piccoli, influisce sulla vita della gente. Poi ognuno risponde per la propria coscienza e credo che ciascuno di noi che ha questo incarico di essere qui a questo, diciamo, questa attività, questo lavoro, questo compito, debba rispondere anche pubblicamente delle proprie, diciamo, azioni. Ecco perché è importante che il Parlamento sia trasparente e la Commissione, ad esempio, sia quella di questi giorni, sia assolutamente alla luce del sole. Sentiamo Antonio da Modena e poi andiamo di nuovo con Polillo. Antonio, buongiorno. Buongiorno a voi. Prego. No, io volevo dire questo, io sono già 2 anni e più, siccome tra Equitalia, tasse e tutto il resto, sono un piccolo fornaio, non è che sia chissà che cosa, non riesco più ad andare avanti, io non pago più niente, è già un po'. Addirittura non pago neanche la Confesercenti. Sono messo da panico. Rivolta fiscale, Antonio. Grande, ma non lo faccio solo, cioè io lo faccio per me, gli altri fanno quello che vogliono. Io faccio in questo modo qua, non pago più niente. Quando quei signori vogliono lo stipendio, se facessero come me gli altri, se lo vanno a prendere poi da un'altra parte lo stipendio. Perché sono più di 1000 persone che non fanno niente per noi, ma niente. E continuano a chiedere tasse. Ancora, continuano ancora. Cosa vogliono? Distruggersi? Faccio uccidere? Io non mi uccido, faccio uccidere loro. Io vado avanti così. Quando vengono a prendere quello po' che ho, glielo do. Ma non ho niente, perciò non prendo niente. Io vi ringrazio, buongiorno. Grazie. Grazie Antonio per la testimonianza. Sentito Polillo a che punto siamo, eh? No, io ne sono assolutamente consapevole. Ma guardi, noi dal 2008 abbiamo perso circa il 10% di PIL. Quindi significa che la ricchezza italiana è diminuita del 10% e questo ha determinato una situazione intollerabile nei confronti delle famiglie, delle imprese, della stessa pubblica amministrazione che non ha risorse per fare luce ai suoi impegni. Il tema, come vede, non è un tema italiano, è un tema europeo. Se il vero rischio che noi abbiamo nei prossimi mesi è che l'Europa così non tiene, se non c'è una politica di sviluppo e quindi se non si evita che ci sia una politica economica sbagliata che deprime l'economia, quindi deprimendo l'economia non dà risorse per affrontare tutti i drammatici problemi che abbiamo sentito, questa Europa così è destinata al fallimento. Capisco che la cosa che sto dicendo è una cosa di una certa gravità, ma noi non possiamo reggere con il fatto che l'euro si rivaluta nei confronti delle altre monete e questo determina una crisi a picco di tutta l'economia reale. Questo solo perché c'è un'ortodossia monetaria a livello europeo che impedisce di utilizzare tutte le poche risorse che abbiamo. Prima Del Rio diceva cerchiamo di fare maggiori investimenti, ma gli investimenti li possiamo fare se in Europa per esempio passa il principio della Golden Rule, cioè se alcune spese per investimenti sono fuori dal patto di stabilità. Se non riusciamo a realizzare questo obiettivo diventa difficile trovare le risorse che servono in Italia e che sta uccidendo il paese, le famiglie e le imprese. E c'è chi ci scrive, Polillo, c'è chi ci scrive a questo punto, dato che parlava di rivalutazione dell'euro, a questo punto dall'euro usciamone, no? C'è chi ci scrive. Questo la vedo, sarebbe una situazione catastrofica per quanto riguarda l'Europa, che non conviene a nessuno. Bisogna convincere specialmente la Germania, come ha fatto Draghi nei mesi passati, che stiamo portando avanti una politica eccessiva nel rigore e che quindi, siccome siamo tutti in situazioni ragionevoli, ci sono dei ragionamenti economici da fare, c'è una dottrina che ci insegna queste cose, dobbiamo dire alla Germania che deve uscire dalla sindrome in cui si è cacciata da anni a questa parte e capire che dobbiamo puntare non a fare le cicale, ma a utilizzare tutte le risorse disponibili che abbiamo. Questa politica economica purtroppo deprime la possibilità di utilizzare le risorse che abbiamo. Se non riusciamo a risolvere questo problema, tutto diventa drammatico, perché la coperta è troppo stretta. Allora, se copriamo i debiti delle imprese, scopriamo la cassa integrazione guadagni. Ma lei immagini se noi rimettessimo, noi quest'anno avremo una prospettiva, un ulteriore calo del PIL che è valutato a 1,3%, se ci dice bene, probabilmente arriveremo un altro meno 1,5, 1,6. Lei capisce che in questa situazione è estremamente difficile risolvere qualsiasi problema. Sono un po' accorato, sì, ma, sì, ma... io non vedo via d'uscite, francamente non ne vedo via d'uscite. Comprendo. Un'ultima domanda, Polillo, e poi andiamo in chiusura di trasmissione e le chiediamo su questo notizie, perché ci chiede qualche ascoltatore via Twitter ed è una cosa che sta circolando in rete in queste ore, così evitiamo insomma di creare panico. C'è chi scrive che il governo sta già pensando a un prelievo forzoso per maggio, stile Cipro. No, perché la crisi di Cipro ha radici profondamente diverse da quelle italiane. Lì c'era una situazione in cui le banche si erano impegnate in una misura assolutamente insostenibile, avevano investito soldi in Grecia, avevano perso un sacco di soldi in Grecia, avevano utilizzato la banca come un bancomat per i politici. Noi ci troviamo di fronte ad una situazione italiana invece in cui le banche sono solide, quindi non c'è nessuna ragione per tenere prelievi forzosi sui depositi, in maniera più assoluta. Abbiamo delle difficoltà, ma le nostre difficoltà sono diverse da quelle degli altri paesi che hanno un'esposizione. Lei immagini che a Cipro, per esempio, il peso delle banche è 8 volte il PIL. Quindi stiamo parlando di situazioni che non hanno nulla a che vedere con l'Italia, quindi questa proprio è una cosa in cui gli ascoltatori devono essere assolutamente tranquilli. Grazie a Gianfranco Polillo per essere stato con noi, grazie a Pierpaolo Baretta, grazie a tutti gli ascoltatori, Giovanni da Padova, Stefano da Palermo, ci torniamo su questi temi e quindi naturalmente siete i benvenuti all'800 24 00 24, grazie anche per chi ci ha seguito con la diretta Twitter. Gli altri ringraziamenti, Gianmarco Ferronato in regia, Franco Piantanini in assistenza, Laura Fagin in redazione, un grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Se volete seguitemi su Twitter, mi trovate Simone Spezia, si scrive Spetia con la T, Simone Spetia, mi trovate là. Ci sentiamo domani naturalmente dopo il giornale radio delle 9. Ricordati,